mai una rosa sbocciò, una siepe fiorì. Ah, una stella brillò, lei mi disse di sì. La cicala cantò ed il grano ingiallì. Ah, ogni cosa cambiò, lei mi disse non so. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, una nube passò, una foglia volò. Ah, un amore finì, lei mi disse di no. Ah, ah, ah, ah, ed allora chissà cosa mai mi dirà.